tempo di sport. I campioni dell'Italia sono sempre loro. Fantastico, molto bene, cominciamo a completare, speriamo di completare il tutto. Grazie. È uno scudetto vinto anche contro tutto e tutti per quello che si era creato. L'Inter capita sempre. Lo scudetto di Mourinho, presidente, lo scudetto di Mourinho. Ha sofferto questa partita, questa giornata. Tutto il campionato fino all'ultimo secondo. L'uomo simbolo di questo scudetto. Di Mourinho questo. Certamente. Arrivederci. L'Inter è campione d'Italia per la 18ª volta nella sua storia, per la 4ª consecutiva sul campo, la 5ª consecutiva considerando anche lo scudetto assegnato nel 2006. Amici di Radio 24, buon pomeriggio, benvenuti a questo appuntamento di A Tempo di Sport da Massimo Callegari. Le vostre telefonate sono attese per commentare l'epilogo del campionato in attesa che l'Inter vada a ricevere il trofeo dello scudetto. Telefonate al numero verde 824 0024, messaggi SMS al 349 238 6666. Ci saranno naturalmente approfondimenti con ospiti e contributi da Siena e anche da Verona, dove la Roma ha vinto. Riepiloghiamo in attesa di celebrare il successo dell'Inter, i risultati di questa giornata, partendo proprio dal 1-0 dei nerazzurri. Diego Alberto, il principe Milito, al 12° della ripresa, una gara giocata con grande intensità dal Siena, che ha onorato l'impegno con estrema professionalità, non solo con i romani e romanisti Curci e Rosi, ma con tutta la squadra e anche con l'impostazione tattica di Malesani. Ha ceduto solo a inizio ripresa dopo una traversa clamorosa di Balotelli nel corso del primo tempo, ma anche un paio di brividi per Giulio Cesar. La Roma aveva già completato l'opera a Verona nel primo tempo e nella parte finale, dopo 5 occasioni nitide, soprattutto con Totti che ha colpito anche un palo esterno, Vucinic al 39° e De Rossi con un destro imparabile al 46°. Gli altri due risultati più attesi: a Genova la Sampdoria ha vinto al 6° del secondo tempo, Giampaolo Pazzini ha celebrato con il 19° gol la Champions blu cerchiata, con l'addio perfetto per Del Neri e Marotta sulla via della Torino bianconera. Il Palermo ha vinto 2-1 al 50° della ripresa a Cavani, dopo una gara molto combattuta, in vantaggio con l'uruguaiano, i siciliani raggiunti poi a inizio ripresa da Ceravolo. Altri risultati meno influenti: la Fiorentina ha chiuso malissimo un campionato che già era stato gestito in maniera pessima nella parte conclusiva, ha perso 2-0 a Bari, gol di Stellini e Rivas nel finale del secondo tempo. Il Catania ha ottenuto il suo record di punti in Serie A con Maxi Lopez al 20° della ripresa, 11° gol per l'argentino, uno dei giocatori più determinanti di questo campionato. Il Bologna ha pareggiato a Cagliari 1-1 ad Ailton e Ragazzo. Il Parma ha battuto 4-1 il Livorno nella giornata dell'addio di Guidolin, con reti di Lanzafame, doppietta, Morrone, Crespo e anche Daniele Vicius per il Livorno, mentre ieri Lazio e Milan avevano battuto Udinese e Juventus rispettivamente. Siamo pronti per celebrare lo scudetto e la consegna del trofeo all'Inter, mentre continua anche l'emozionante giro di campo dei giocatori della Sampdoria sulle note del cielo è sempre più blu a Marassi. Quindi strada in diretta rapidamente e poi seguiremo in diretta tra poco proprio la festa dell'Inter, ancora tra qualche istante, con Balotelli che festeggia con Arnautovic e la Sampdoria che sta festeggiando dopo una partita che è stata molto sofferta con il Napoli, che ha giocato alla pari del Siena e anche della stessa Atalanta con grandissimo orgoglio. Lo ha fatto, ha provato a farlo anche il Chievo nel primo tempo, ma dopo che il risultato si è sbloccato la gara è stata gestita senza patemi ulteriori dalla Roma. Lo stesso è successo in parte a Siena nel secondo tempo dopo il gol di Milito, mentre il Napoli ha messo in difficoltà la Samp anche dopo la rete di Pazzini al 6° minuto del secondo tempo, addirittura colpendo un palo con Dossena. È stato bravo Strari a deviare sul suo primo palo la conclusione volante dell'ex giocatore di Udinese e Liverpool. Ora anche le seconde linee dell'Inter, Crin e Muntari, oltre a Mariga e Cordova, che è comunque un simbolo storico di questa squadra, stanno ricevendo la medaglia da parte del presidente della Lega Beretta. Arriva anche Lucio, che oggi non ha giocato, al suo posto Marco Materazzi. C'è anche Giulio Cesar, che ha rischiato pure in questa giornata nel secondo tempo di essere condizionante negativo per la sua squadra, come era accaduto a Roma nello scontro diretto e a Firenze nel match pareggiato dall'Inter per 2-2, ma è stato decisivo a sua volta il portiere brasiliano, soprattutto in Champions a Stamford Bridge e al Camp Nou. Arriva anche Maicon, che ha giocato anche oggi una gara di altissimo livello, una stagione portentosa del brasiliano con 7 assist nonostante alcuni passaggi a vuoto, soprattutto nella fase iniziale. Chissà se lui davvero sarà uno dei primi giocatori deputati destinati a seguire José Mourinho a Madrid, secondo voci sempre più insistenti dalla Spagna. Strade in diretta, poi la festa dell'Inter, tra poco. Strade in diretta. Per un incidente, rallentamenti sulla A13 Bologna-Padova verso Padova tra Boara e Monselice. Per traffico intenso invece code a tratti sull'Autosole nella zona di Firenze in direzione Bologna e in Liguria sulla A10 tra Spotorno e Savona verso Genova. Un'ora di attesa anche al traforo del Monte Bianco dall'Italia verso la Francia. Strade in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Diego Alberto, il principe Milito, ha ricevuto ora la medaglia dal presidente della Lega Beretta. L'Inter si sta portando al centro del campo con tutti i suoi uomini. Milito, uomo scudetto in questa partita a Siena e nel corso di tutta la stagione. Un solo dato può dare l'idea della forza spaventosa di questo giocatore e del suo essere stato decisivo nel corso di tutto il campionato. Ha segnato 22 reti in 21 partite, ovvero una sola doppietta. Per il resto ha distribuito le sue marcature lungo tutto il torneo con una continuità impressionante. Arriva anche Pandev, c'è con noi in attesa della consegna della Coppa anche Gigi Garanzini per un commento al titolo ottenuto dall'Inter con il successo a Siena. Bentornato Gigi, buona domenica. Buona domenica a voi. È stato un successo un po' più sofferto rispetto a quanto ci si poteva aspettare alla vigilia di questa ultima giornata? Sì, entro certi limiti sì, ma perché l'Inter ha sbagliato un numero incalcolabile di gol nel primo tempo, insomma c'era evidentemente un po' di tensione che si è tradotta in un eccesso di frenesia sotto porto. Ho visto a parte una prodezza strepitosa di Balotelli, che è stata sfortunata perché ha centrato la traversa in pieno, ma insomma ho visto almeno due gol falliti proprio da Milito, gol che lui in genere mette dentro con grande disinvoltura, un altro gran numero di occasioni fallite. Il Siena ha giocato la sua onesta partita, ma insomma come ha fatto il Chievo a Verona, ma la differenza di valori è enorme, sicché un Inter così motivata, insomma, poi il punteggio finale, questo 1-0, non dà minimamente l'idea di come è stata la partita, sì. Direi prima ancora del vantaggio che non dopo. Ci sono uomini che meritano una citazione in più rispetto ad altri, secondo te, per questa stagione? Credo di sì, io soprattutto metterei i due argentini, i due decisivi oggi, Zanetti che gli ha recapitato quel pallone quasi a domicilio e Milito per come l'ha trasformato. Mi pare che Milito abbia non solo preso il posto di Ibrahimovic in Italia, non possiamo dimenticare che Ibra, che pure adesso attraverso il periodo nero, insomma, ha vinto 5 scudetti consecutivi in Italia da trascinatore, 2 con la Juve e 3 con l'Inter, e quindi Milito ha preso quel posto, ma risultando anche molto ma molto più determinati in Europa, cosa che invece a Ibrahimovic non è mai accaduta, e si è avuta la controprova quest'anno quando ha fatto da freno quasi a Barcellona proprio contro l'Inter. E Zanetti perché mi pare il simbolo di un giocatore di come un giocatore si possa migliorare sempre. Cioè lui adesso è arrivato a 37 anni ed è molto ma molto più incisivo e determinante per la squadra di quanto non fosse in giovane età, quando i palloni li recapitava come oggi, no? Con una specie di porta celere, e invece grazie a Mancini prima e a Mourinho poi, insomma, ha imparato che il pallone può anche correre, ci si può anche liberare di prima, o se non di prima di seconda, e mi pare sia cresciuto moltissimo, e oggi è un po' il simbolo di questa Inter. Gigi, seguiamo insieme la consegna del trofeo all'Inter con tutti i magazzinieri compresi che stanno ricevendo la medaglia, con Mourinho che si fa attendere e dovrebbe chiudere la serie di premiati. Eccolo qua che sta arrivando, seguiamo la premiazione in diretta su Sky. Thank you. Vediamo di cogliere l'emozione sul volto del portoghese. Non è l'ultimo però Mourinho. Un po' commosso Mourinho, Maurizio. L'ultimo, sì, molto Fabio. E adesso capitano Zanetti. Anche oggi è stato determinante perché il gol di Milito è nato da una sua splendida percussione. Ecco qui lo sguardo di Mourinho. È chiaro che adesso ci sarà da interpretare ogni parola, ogni sospiro del portoghese, ma è chiaro che prima della finale nulla si saprà. Ecco il momento della consegna della Coppa. Il quarto sul campo, il 18° scudetto in una stagione già fantastica, la Coppa Italia, lo scudetto, tra 6 giorni, la finale di Madrid, di Champions League contro il Bayern Monaco. Mario, Beppe. Ecco Gigi, tra 6 giorni la finale di Champions, già si prospettano naturalmente tutte le ipotesi per questo confronto. L'Inter festeggerà oggi, ci sarà una moltitudine di tifosi in Piazza Duomo e poi da domani o al massimo dopodomani si concentrerà su questa sfida, secondo te con il ruolo di favorita ancora più chiaro dopo il morale a 1000 dopo la giornata di oggi o no? Cioè, era favorita prima, a parer mio rimane favorita adesso, però io credo che se si accosta troppo favorita sbaglierebbe atteggiamento, perché credo che il Bayern sia una squadra da prendere assolutamente con le molle, soprattutto in una finale secca. Credo che l'Inter avrebbe pochi problemi sui 180 minuti, ma sì, sui 90 queste sono partite tutte da giocare. E una squadra tedesca, tra l'altro una buona squadra, come poi a gioco lungo si è rivelato il Bayern, ma presa con molta attenzione. L'Inter rimane favorita, questa sì, questo sì, però io prima di arrivarci credo che sarebbe doveroso ricordare l'apporto della Roma in questa, sì, certo, questa stagione, certo, che è stato persino superiore a quello dell'Inter, cioè i meriti della Roma sono stati superiori a quelli dell'Inter in questa stagione, nel senso, almeno dal mio punto di vista, che se sei Davide e fai 2 punti meno di Golia dopo 38 giornate e quindi 38, 76, 114 a disposizione, beh, vuol dire che hai fatto di più, insomma, dalla sì, parte sì, dell'Inter. Nel bilancio dell'Inter è ovvio che c'è la qualificazione alla finale, la vittoria in Coppa Italia, ma soprattutto la qualificazione alla finale di Champions, il che significa che quel rallentamento che l'Inter ha avuto tra febbraio e marzo, che ha consentito alla Roma di avvicinarsi a quel modo, insomma, spiega molte cose, ma non, questo non toglie che la Roma, che addirittura Ranieri ha fatto più punti di Mourinho, perché è partito sì, a handicap con solo la terza giornata con 0 punti, e quindi credo che in tutti questi anni nessuno abbia avuto, cioè mai l'Inter abbia avuto un rivale acerro, insomma, irriducibile come è stata la Roma quest'anno. La stessa Roma di 2 anni fa, che giocava un calcio migliore, aveva più qualità della Roma di quest'anno, e quindi credo che la Roma abbia compiuto davvero un'impresa con le sue risorse ad arrivare ad avere addirittura lo scudetto virtuale sulle maglie per, non so, 17 minuti, come è accaduto sì, ancora oggi. Mourinho quasi a stento trattiene le lacrime, sta camminando nel giro d'onore con le Leoriali. I tifosi a Siena sono naturalmente tutti rimasti al Franchi a festeggiare. Conosco e conosciamo la stima per il tecnico Mourinho, un po' meno per l'uomo Mourinho da parte tua. Qual è il suo merito principale in questa stagione? Beh, di aver portato la squadra in condizioni ottimali a tutte e tre, a tutte e tre gli obiettivi, 2 dei quali centrati. E con buone probabilità di centrare addirittura il terzo, quindi di siglare un'impresa storica. È chiaro che se non c'è un grande valore di tecnico, una cosa del genere non è possibile, tant'è vero che sono imprese che riescono una volta ogni tanto, no? È riuscita l'altro anno al Barcellona, ma prima del Barcellona non so da quanto tempo non accadesse una cosa di questo genere, e quest'anno invece a qualcuno tocca, perché o tocca a Mourinho o tocca a Mangal. Sono innegabili i meriti di un allenatore alla fine di una stagione di questo genere, soprattutto quando devi assemblare una squadra che è molto più forte di quella dello scorso anno, perché ha molte risorse di gioco in più, ma è chiaro che tutte queste risorse in più le devi per l'appunto far funzionare. L'Inter è stata fortunata in Coppa indubbiamente in autunno, quando diciamo pure che avrebbe meritato l'eliminazione, che invece ha scansato in maniera miracolistica a Kiev, proprio perché c'era stato questo ritardo, no, di assemblaggio, di messa a punto di tutti questi giocatori nuovi. Dopo, da quando ha trovato l'assemblaggio giusto e il passo giusto, mi sembra sia diventato uno squadrone che non a caso ha fatto addirittura meno fatica ad arrivare in Europa, ad arrivare alla finale europea contro squadroni come Chelsea e Barcellona di quanto non ne abbia fatto in campionato con la Roma, e da qui l'elogio inevitabile e con le maiuscole del lavoro che ha fatto la Roma quest'anno. È vero. Chiudiamo anche, prima di una pausa per pubblicità e meteo, e mentre Moratti viene portato in trionfo dai suoi giocatori sul Prato del Franchi, con un elogio a Del Neri e Marotta e anche con una valutazione su quello che potranno fare lontano da Genova dopo aver portato la Samp in Champions quasi 20 anni dopo dall'ultima volta. La valutazione non è facile e non mi illuderei, ecco, né nei panni di Del Neri né di Marotta e neanche dei tifosi della Juventus, nel senso che è un'altra categoria quella che vanno ad affrontare. A Genova hanno fatto un lavoro strepitoso, io mi fermo a Del Neri perché poi insomma, è più facile giudicare un allenatore. Per Neri i numeri dicono che cosa ha fatto Del Neri quest'anno. Se l'Atalanta ha fatto, credo, 16 o 18 punti meno dell'altro anno, quando era allenata da Del Neri, e la Sampdoria quest'anno non ha fatti 16 o 18, credo, più dell'altro anno quando era allenata da Mazzarri, che non è proprio l'ultimo della pista, beh, vuol dire che Del Neri ha fatto una stagione strepitosa. È giusto che una società di primissimo livello, e quindi non la Sampdoria come la Juventus, guardi a un allenatore così bravo, con un rendimento così alto per il proprio futuro, ma è giusto entro certi limiti, secondo me, perché comunque c'è un salto di categoria, di qualità, di pressioni, di attenzioni, e non c'è la possibilità di lavorare con la serenità che a Del Neri è indispensabile, per il mio. Io credo che basterebbe la mossa di quest'anno, quando ha sentito di dover escludere Cassano per 2 mesi per poter ritrovare la propria squadra. Ecco, io credo che queste cose alla Sampdoria si possano fare, anche se a grave rischio personale, sì. Anche lì credo che alla Juve sarebbero un po' più difficili. Grazie. Grazie Gigi, buona domenica, buona settimana pre-Champions. Buon pomeriggio a voi. Grazie Gigi Garanzini, subito Ranieri in diretta con Sky. Qualcosa di incredibile, l'Inter lo doveva vincere, l'Inter di Moratti lo doveva vincere questo campionato, è inutile che ci prendiamo in giro, però io credo che la protagonista sia stata proprio la Roma, perché perlomeno ha riaperto i giochi, ha fatto vedere che non c'era soltanto una squadra, ma ci siamo stati noi a lottare fino in fondo con tutte le nostre forze. Noi avevamo promesso ai tifosi di arrivare fino in fondo agli 80 punti, di lottare fino all'ultimo secondo. L'abbiamo fatto, non abbiamo vinto nulla, pazienza, nello sport ci sta chi vince e chi perde, complimenti ai vincitori, però io devo abbracciare uno a uno tutti i miei ragazzi. Rende la Roma con i suoi 80 punti ancora più grande questo campionato dell'Inter? Ma non lo so se lo rende più grande, io guardo in casa mia, io dico che la Roma è stata meravigliosa, 24 partite senza perdere, è stata veramente un'annata molto ma molto positiva. Non dimentichiamoci che c'erano delle contestazioni, c'erano dei giocatori che non andavano, per cui piano piano si è ricreato un ambiente positivo, abbiamo ricominciato a camminare, a correre e a volare. Ci siamo fermati oggi, ma nessuno ci ha fermato, e questo è importante. Claudio, un attimo solo, andiamo un attimo a Siena, c'è Stankovic in mezzo al campo con Paventi, poi torniamo subito da te, è anche bello fare questo ping pong, visto che state rispondendo tutti con grande classe, tra l'altro. Andiamo ad Andrea Paventi. Andrea e Fabio, gli hanno appena consegnato la coppia, è stato il capitano. Sì, grazie, siamo in diretta, sì. Saluti a tutti, guarda, è bellissimo, è quinto di fila, oh. C'è anche, se lo meritano tutti i nostri tifosi, ce lo meritiamo noi, il nostro presidente, tutto il staff che c'era intorno a noi. È stata dura oggi, ma così si vince, non si può vincere facile un scudetto, perciò complimenti ai miei compagni. C'è anche Claudio Ranieri in diretta, non so se vuoi fare i complimenti all'allenatore della Roma. Sì, ma certo, come no, hanno fatto un campionato bellissimo, straordinario, erano sempre lì, se Inter non vinceva oggi lo vinceva la Roma, perciò complimenti al mister, che lui lo sa che lo stimo tanto, complimenti a tutti i giocatori. Sui complimenti di Dejan Stankovic alla Roma, ci fermiamo per qualche istante per una pausa, anche il meteo, vi ricordo però i nostri numeri 800 24 00 24, il numero verde per le telefonate, 349 238 6666 per i messaggi SMS, per commentare questa ultima palpitante giornata di campionato, tra poco. L'Africa. Mama Africa. Contesa, divisa, pacifica, bellicosa. 900 milioni di persone che camminano verso il futuro. Radio 24 racconta la passione africana con un viaggio nel grande continente per capirne la trasformazione, l'economia, l'arte e le speranze all'ombra della grande passione comune per il calcio. Passione africana. Ogni sabato alle 19.30 e domenica alle 22.30. Su Radio 24. In collaborazione con Eni. Dottor Bocchia! Eccolo! Pilone! Dottoressa Frangi! Sì! Tre quarti ala! Ingegnere Montali! È qui! È estremo! Il futuro ha bisogno di più anima. Per questo i migliori consulenti, le migliori banche e reti di promotori finanziari propongono i fondi comuni di Anima e ti offrono l'assistenza e la consulenza necessarie. Il valore a portata di mano. Anima. Insieme per il valore. Pronti a dare l'anima? Ah! Ah! Ah! Nima! Nima! Nima! Prima dell'adesione leggere il prospetto. Disponibile presso la sede della società, i distributori e sul sito animasgr.it. Thailandia, Asia, Australia, Nuova Zelanda. Mete da sogno per il tuo prossimo viaggio. Realizza i tuoi desideri. Per festeggiare il 50° anniversario, Thai Airways ti propone delle tariffe speciali. Potrai raggiungere la Thailandia a partire da 559 euro, Bali da 739 e l'Australia da 1085. Andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Parti entro il 9 luglio. Scoprirai la convenienza e la leggendaria ospitalità di Thai Airways. Thai. Smooth as silk. Da Expert trovi qualità e non scommesse. Acquista un TV Full HD ed Expert ti dà in abbinamento 6 mesi di Sky con tutti i mondiali in alta definizione. Il TV LED 40 pollici Sony, design esclusivo e digitale terrestre HD, abbinato al pacchetto Sky a soli 999 euro. E paghi fino a 24 mesi a tasso zero. Tan zero, tag zero. Expert. Gli esperti siamo noi! Promozione valida dal 14 al 29 maggio. Informazioni, regolamento, avvisi e fogli informativi nei punti vendita aderenti, salvo approvazione della finanziaria. Scommettiamo che vieni da noi! 45 anni di missioni speciali, 6.000 diverse identità. Ora è pronto per un nuovo incarico. Transit, socio inseparabile. For Transit Connect TDCI a 8.750 euro, solo a maggio. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero al centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreforma.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Prevalenza di bel tempo al nord, Alta Toscana e Sardegna, salvo un po' di nuvole innocue di passaggio. Al centro-sud situazione in miglioramento, ma con ancora un po' di instabilità che darà luogo a isolati rovescio temporali nelle zone interne e localmente lungo le coste del medio-basso Adriatico e del basso Tirreno. Temperature in ulteriore rialzo al nord e regioni tirreniche. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E per il meteo è tutto. La sua voce ti manda in estasi, la sua grinta ti fa perdere la testa. Se la tua passione per l'auto è sfrenata, leggi Automobilismo. Automobilismo, le automobili messe a nudo. Ogni mese in edicola. questo è l'ufficio export. Però quanto personale, che investimento. Eh no, ai nostri due interni ho aggiunto un export specialist in outsourcing. Ah, servirebbe anche la mia azienda, ma è venduto all'estero. In carica un export specialist Comark. Nuovi mercati e incremento di fatturato a costi contenuti. Vedrai che metodi e strumenti di vendita innovativi. Oggi per vendere servono nuove soluzioni. Vendere all'estero? Chiama Comark. Comark ha un export specialist anche per la tua azienda. Chiama 800-123-640 o vai su www.aziendedisuccesso.it. Divani Idea, la vera idea di qualità. Gli esclusivi divani in pelle e tessuto, firmati Divani Idea, a prezzi irripetibili. Solo dall'8 al 29 maggio. Divani Idea, fiducia e fedeltà nel Made in Italy. Divanidea.it. Impossibile, imbattibile, inspiegabile. Cosa può fare il 5 per 1000 contro il cancro? Possibile, battibile, spiegabile, curabile. Aiutaci ad eliminare le prime due lettere della parola incurabile. Scegli di devolvere il 5 per 1000 all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Basta inserire il codice fiscale di AIRC nella tua dichiarazione dei redditi. Chiama il numero verde 800 350 350 o visita il sito AIRC.it per il codice fiscale. Uno dei grandi misteri dell'antichità è legato al culto di Icaro. I suoi seguaci, detti Icarini, lo veneravano come un dio e nei loro riti ne rievocavano il famoso volo. In queste cerimonie si lanciavano da una rupe con grandi ali di terracotta, di cui purtroppo non ci è arrivato integro neanche un esemplare. Morale? Meglio stare coi piedi per terra. Trazione integrale motore boxer. Tecnologia esclusiva Subaru. Nuova Subaru Legacy. Un'autentica calamita da 26.400 euro. Oggi anche in versione berlina. Negli showroom Subaru anche sabato. Alza lo Sky Gold Box, capitano! Alzalo al cielo! È il Gold Box di tutti gli italiani! Sky Gold Box a 49 euro. Puoi vedere tutto Sky fino a fine agosto, mondiali FIFA in HD inclusi. Chiama 02 70 70. Info su sky.it/goldbox. Tempo di sport. Tra poco torneremo a Siena per raccontarvi la festa dell'Inter e per farvi sentire altri contributi e interviste dei protagonisti, ma oltre ad attendere le vostre telefonate all'800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666, ad esempio ce n'è uno di Gennaro da Vicenza che dice: tra due mesi nascerà mia figlia, posso chiamarla Milita? A parte questo, è in attesa di altri contributi. Riccardo Ferri è collegato con noi per raccontarci come ha vissuto questa ultima giornata e questo campionato dell'Inter. Riccardo, bentornato, buonasera. Ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti. L'ho vissuto in casa, chiuso nelle quattro mura, con grandi emozioni, perché comunque la partita ha dato grandissime emozioni. Guardavo un po' la Roma, un po' l'Inter, comunque dopo il doppio vantaggio della Roma era sceso il gelo anche in casa, anche se ormai la giornata è bellissima. E devo dire che poi dopo il gol di Milito, al di là del gol che poteva anche bastare, però l'Inter dava l'impressione comunque di amministrare la partita e di rischiare poco. Comunque un campionato esaltante sotto tutti i punti di vista. Non dimentichiamo che dopo 15 giornate si dava ormai per vinta l'Inter il campionato, poi c'è stato il ritorno della Roma, dunque un campionato avvincente come mai era successo negli ultimi anni. Dunque questo sicuramente dà un contributo importante al nostro campionato, dà molto risalto anche a livello europeo e mondiale. Maicon prima, subito dopo il match, ha detto tra le altre cose: mi sono sempre fidato dei miei compagni, di tutti quelli che lavorano con me, e non ho mai temuto di perdere questo campionato. Secondo te c'è stato un momento in cui invece all'Inter hanno avuto il timore che lo scudetto non sarebbe rimasto a Milano? Sì, beh, un po' di timore ci sono stati, però anche gli altri compagni credevano molto in Maicon, credo, perché comunque ha fatto un campionato strepitoso. Sì, no, indipendentemente da quello che ha detto Maicon, io credo che ci sono stati dei momenti dove la flessione dell'Inter e il ritorno della Roma, insomma, avevano messo dei grandissimi dubbi sul campionato, e anche perché imperversava la Champions League, che insomma aveva condizionato non molto l'andamento in campionato dell'Inter. Dunque tutto questo insieme aveva fatto pensare in negativo, però al di là della partita iniziale col Bari, il pareggio, poi c'erano stati quei 30 punti in 10 gare che avevano dato il là all'Inter rispetto alla Roma, Juve, Milan, e poi c'è stata quella tremenda flessione nel periodo da dicembre praticamente fino a marzo, dove una serie di pareggi inaspettati ha fatto sì che la Roma con grande vigore potesse riaccorciare le distanze e addirittura impensierire fino ad oggi l'Inter. Dunque questo era veramente impensabile all'inizio. Hai gustato o sofferto di più tu in quanto rappresentante dell'interismo, più questo scudetto o quello vinto 2 anni fa con Ibrahimovic a Parma? Beh, si assomigliano molto, però devo dire che questo un po' di più, forse ha pesato un po' di più, anche perché quella era un Inter che dipendeva molto da Ibrahimovic e probabilmente in quell'occasione forse abbiamo sofferto di più. Questo, insomma, devo dire che la vittoria della Coppa Italia alle porte, dopo questa partita alle porte c'è una partita sicuramente storica che è quella della finale con il Bayern a Madrid, tutto questo diciamo che se fosse andata male poteva un attimino anche un po' sminuire tutta l'annata, dunque voglio dire, anche se il campionato fosse stato perso, e questo chiaramente non era l'augurio che ci facevamo, però tutto sommato la vittoria della Coppa Italia, la possibilità di vincere una Champions League avrebbe comunque tolto un po' di insoddisfazione agli interisti, però devo dire che forse quello è stato più sofferto perché dipendevamo molto da Ibrahimovic, mentre adesso possiamo dipendere dalla squadra. L'ultima cosa a questo proposito, come ha detto Mourinho, è vero che l'Inter può andare avanti anche senza di lui perché ormai la strada è tracciato o dipende molto dal suo allenatore? Ma io credo che, ma si dice che l'allenatore incide per il 20%, io credo che in questo caso l'allenatore ha inciso sicuramente un po' di più del 20%, adesso non voglio fare percentuali. Devo dire che l'Inter può andare avanti anche senza Mourinho, io credo di sì, però è chiaro che se ci fosse lui la guida, conoscendo anche un po' i ritmi della squadra, capendo un attimino anche lo spogliatoio, sai, un allenatore nuovo arriva, deve studiare, deve capire un po' quali sono gli umori, no, dello spogliatoio, e conoscere in maniera individuale i giocatori, riuscire a trasmettere a loro tutto l'entusiasmo. Devo dire che Mourinho è riuscito in tutto questo. Certo che alla base, a questo punto possiamo dire che c'è una grande società, e c'è sicuramente un grande progetto dietro, c'è sicuramente una grande struttura, quello che forse negli anni passati non c'era, adesso c'è. Però è chiaro che tutti si augurano che Mourinho possa rimanere, e devo dirti, Massimo, che oggi sì, vedendo l'emozione che ha espresso Mourinho facendo il giro del campo a Siena e via dicendo, fa pensare in negativo, no? Fa pensare in negativo, come se fosse un addio, però lo rende più umano, lo rende più vicino a noi, e credo che tutti gli interisti a questo punto si augurano che lui possa scegliere di rimanere. Grazie Riccardo. Tutto da lui. Certo, grazie Riccardo. Appuntamento a questa sera con lo speciale scudetto su Premium Calcio alle 21. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buona serata a Riccardo Ferri. Peraltro Mourinho non ha posato con la squadra sotto il cartello che indica il 18° scudetto nerazzurro, ma si è concesso quella camminata attorno al campo, un giro d'onore molto molto vissuto ed emozionante per salutare i tifosi. Ha sventolato la maglietta con il numero 18, quella che i giocatori hanno indossato al momento della premiazione. Ora stiamo pronti per avere altri contributi da Verona, in particolare da Siena. Sentiamo Cambiasso e De Rossi da Sky. Partita con la Samp, noi siamo stati bravi a, da lì in poi non mollare mai più. È stato sempre un livello di autostima molto importante quello della squadra, ma in questa stagione ci pensavate di arrivare a quest'ultima settimana dell'anno a giocarvi due cose così importanti, poi quella di sabato, straordinaria per la storia dell'Inter, anche per la tua e di tanti giocatori? Ma sicuramente uno parte con la voglia, con l'idea di vincere tutto, di arrivare fino in fondo a tutto, sapendo la grandissima difficoltà che c'è. Siamo riusciti a vincere la Coppa Italia, adesso il campionato, e quello che parlavo un po' con i ragazzi, abbiamo una partita sabato prossimo che farà la differenza tra un'annata straordinaria, come credo che già lo è, con un'annata storica, che è quello che vogliamo fare. Fabio. C'è De Rossi anche in collegamento da Verona, anche se vedo che sta mettendo adesso l'auricolare, non so quindi se adesso proprio mi sente, lo sta mettendo adesso. Daniele, mi senti? Sì, da sì, Milano, benissimo. Fabio. Daniele, sente, sono sì, arrivati sì, i complimenti alla Roma praticamente da tutti i giocatori dell'Inter, dal presidente, da tutti quanti. Grazie altrettanto, insomma. Ha fatto un grandissimo. State parlando insieme, sono sì, una grande squadra e nessuno. No, stavate parlando insieme, sì, vabbè. Vai, no, Daniele. Anche per parlare, prego. No, comunque, De Rossi risponde in maniera corretta, naturalmente un sorriso un po' amaro perché la Roma non è stata campione d'Italia per 54 minuti come era accaduto nel 2008, per 18 minuti complessivi quest'anno, i 6 finali del primo tempo e i 12 iniziali della ripresa sino al gol di Diego Alberto del Prince Benito. Peraltro, se la Roma avesse vinto lo scudetto sarebbe stato qualcosa di clamoroso e mai successo nella storia del nostro campionato. Nessuna squadra ha mai trionfato nel torneo a girone unico dopo aver perso le prime due partite. Questo era accaduto con Spalletti, poi è arrivato Ranieri. Però tutti i numeri, non solo nel confronto diretto tra Inter e Siena, ma in tutto il campionato, sono favorevoli all'Inter, ed è quasi difficile comprendere come il margine sia rimasto di appena 2 punti tra le due squadre, se si considera che l'Inter è la squadra che ha vinto di più con la Roma 24 partite, ha fatto più punti in casa, ha segnato più gol, ne ha subiti di meno, 75 gol fatti, 34 subiti, ha vinto più volte in trasferta, 9, ha segnato di più di tutti in trasferta, 33 gol e anche in casa, ha subito meno reti lontano da San Siro, 19 come il Milan, e per ben 18 volte Giulio Cesar è rimasto imbattuto nel corso di questo campionato. Una grande differenza l'avrebbe potuta fare se le squadre fossero arrivate a pari punti lo scontro diretto del ritorno, l'Inter se avesse pareggiato sarebbe rimasta nettamente in vantaggio sulla Roma e soprattutto avrebbe avuto poi un margine anche nella differenza reti totale, dopo che gli scontri diretti sarebbero rimasti in parità con il pareggio dell'andata e quello del ritorno, e invece la Roma lì si è avvicinata e ha dato vivacità a questo campionato. Se si può fare una critica e contestare qualcosa da Roma, può essere la motivazione che è mancata, l'autostima che è mancata nella volata finale, perché quando la Roma è arrivata davanti all'Inter in classifica, in quel momento Ranieri ha detto: se siamo qui è perché l'Inter ci ha concesso questa possibilità e ha perso punti nel corso della sua stagione. È mancata un po' di autostima. Se la Roma lì avesse capito e si fosse convinta che era lì per merito suo e non solo per demerito dell'Inter, forse sarebbe riuscita anche a resistere al calo psicofisico finale che ha portato poi al KO interno con la Sampdoria. Tra poco parliamo anche di Samp, parliamo con voi all'800 24 00 24, nei vostri messaggi al 349 238 6666. Il traffico. Strade in diretta. Per un incidente, code sulla A13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione Padova. Per traffico intenso invece rallentamenti sull'Autosole intorno a Firenze verso Bologna e in Liguria sulla A10 tra Pietra Ligure e Savona verso Genova e sulla A12 a partire da Rapallo in direzione del capoluogo ligure. 1 ora e mezza di attesa al traforo del Monte Bianco dall'Italia verso la Francia. Di conseguenza è stata chiusa la A5 in direzione nord tra Courmayeur Sud e la Statale 26. Strada in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. La domenica scudetto fagocita tutto quanto di altro ed importante è successo in ambito sportivo. Vi ricordo che a Monte Carlo ha vinto Weber, secondo successo consecutivo per lui, e doppietta Red Bull, secondo Vettel, quarto Massa, ancora da discutere la posizione finale di Alonso che ha recuperato sino alla sesta o settima. Ci sono discussioni sulla manovra di Schumacher che potrebbero costare addirittura 25 secondi di penalizzazione al tedesco, mentre il danese Chris Sørensen ha vinto l'ottava tappa del Giro d'Italia con arrivo sul Terminillo, 30 secondi in ritardo Simone Stortoni, 36 lo spagnolo Javier Tondo Volpini, a poco meno di un minuto il gruppo dei migliori con volata vinta da Damiano Cunego. C'è il primo ascoltatore all'800 24 00 24, è Sergio dalla provincia di Trapani. Buonasera. Prego. Lo do un saluto a tutti gli interisti che come me sono in viaggio, che hanno scaricato tutto il cacso della loro auto, del loro furgone, quello che sia. Volevo dire che questo qua, secondo me, visto che ho 24 anni, è il primo scudetto che veramente ho sentito forte come l'Inter, come Inter forte proprio, perché come quest'anno forse non lo è mai stata. Tanti dicono che è il merito di Mourinho, ma secondo me è proprio la squadra che ormai ha capito come giocare, si è compattata tutta, e secondo me può venire ad allenare pure Malesani all'Inter per vincere con chiunque. Non che Malesani sia un cattivo allenatore, però per far capire che chiunque si può venire ad allenare l'Inter, questa Inter. Pensi però che una domenica a metà stagione, quando Carlo Genta mi chiamava nelle nostre domenicali chiacchierate, qualcuno di voi chiamò e disse: ma sì, tanto lo scudetto l'abbiamo già vinti tanti, l'importante è la Champions. E io dissi: ma mi sembra di ricordare quelli dell'Ajax che quando vincevano la Coppa dei Campioni a forza di vincere, poi quando vinsero dalla Juve la buttarono nel cestone delle maglie. Adesso però avete cambiato un po' sensazione, avete sofferto quest'anno, un po' più di più. Quest'anno non era solo uno scudetto, perché poi ripetiamo, uno scudetto è sempre importante, ma quest'anno era, come spesso e volentieri ha ripetuto Mourinho, quest'anno era il sogno di vincere, di passare proprio alla storia come vincere Coppa Italia, scudetto e Coppa Campioni. Quest'anno lo scudetto ci serviva appunto come il due terzi del nostro sogno, che speriamo che settimana prossima si realizzi. Ripeto, uno scudetto è sempre importante. Per quest'anno l'Inter, diciamo, lo scudetto sì, è importante, forse non sarà apprezzato come magari gli altri anni, però diciamo che ha sempre c'è la sua valenza. Grazie, buona festa e buon sogno. Grazie, grazie. Grazie a Sergio dalla provincia di Trapani. Ora sentiamo ancora un attimo De Rossi, poi altri contributi. Ci ha portato a fare una cosa che nessuno sperava. Ultima domanda a Beppe Bergomi. Daniele, complimenti, volevo dirti questo. Due anni fa quando l'avete perso all'ultima grazie. Giornata, l'anno dopo non avete fatto bene. Secondo te questa squadra è in grado il prossimo anno di riuscire a tenere testa fino alla fine all'Inter? No, secondo me sì, però secondo me lo era anche due anni fa, quindi insomma mi gratto e proverò a lavorare in questa direzione. Secondo me è una squadra che è subito inferiore all'Inter, probabilmente la Juve può raggiungerci, il Milan e idem, hanno grandi risorse che probabilmente noi non abbiamo, ma da 5-6 anni a questa parte stiamo sempre lì, almeno qualche un paio di stagioni negative. Questo era De Rossi con i suoi ultimi contributi e questa ultima frase che chiarisce probabilmente anche le sue intenzioni in maniera ulteriore sul futuro, nonostante ci siano diversi club importanti, Inter compresa, che vorrebbero portarlo via da Roma. Questo non succederà, perché la volontà di De Rossi è quella di continuare a lottare per la Roma. Magari naturalmente attendiamo anche i vostri contributi e valutazioni su questa sua scelta, quanto potrà essergli utile sul piano personale e quanto è comprensibile da chi non è romano. Dal mio punto di vista non sono romano, è difficile arrivare a capire davvero fino in fondo cosa significhi il legame tra un giocatore e la sua squadra, e questo spiega alla fine le scelte di vita e di carriera di giocatori così importanti come De Rossi, che spesso ha ammesso: potrei vincere di più da altre parti, ma vincere qui ha un gusto tutto particolare e inarrivabile. Sentiamo un attimo Malesani e poi altri contributi. Raramente dopo una retrocessione si vedono macchine incendiate, casini in Italia. Oggi mi ha commosso la gente di Siena, perché siamo usciti tra gli applausi, quindi vuol dire... Sembrava di essere in Inghilterra. Sembrava di essere in Inghilterra, una lezione veramente a quello che è adesso diventato il nostro calcio, ha fatto solo di polemiche e basta. Questo era Malesani, è giusto il concetto che lui ha espresso, grazie anche al modo in cui lui ha giocato come se il Siena dovesse pareggiare con l'Inter, ovvero ottenere il massimo possibile per la differenza di valori tra le due squadre. Lo ha fatto in maniera corretta, con ammonizioni che sono arrivate ma non per situazioni estreme o interventi particolarmente cattivi. È stato bravo anche Morganti, e dobbiamo anche sottolineare che è stata una giornata conclusiva in cui gli arbitri sono stati impeccabili per quello che si è visto, seguendo le partite alternate in tutti i momenti principali. Rimaniamo su questo duello scudetto con Andrea Etrari, ci facciamo raccontare Chievo-Roma rapidamente quello che è successo a Bentegodi. Andrea, buonasera. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Una partita vera, diciamo, per almeno 45 minuti. Si sa che quando c'è l'ultima giornata o le ultime giornate si sospetta qualcosa. Qui invece la Roma è stata padrona del campo, sì, però fino alla quasi alla conclusione del primo tempo il Chievo l'ha tenuta sulla corda, ha sbagliato diversi gol la formazione di Ranieri ed è andata a segno soltanto nel finale del primo tempo, prima con e Vucinic, subito dopo con un gran tiro da fuori di De Rossi che ha proprio chiuso il primo tempo. Il secondo tempo invece pura accademia, e poi è arrivata la notizia da Siena che ha un po', diciamo così, rattristato i romanisti presenti qui al Bentegodi in almeno 15.000. Benissimo, grazie Andrea Etrari. Andiamo a Siena da Massimo Solazzini con Valentina Mezzaroma, vicepresidente dei Toscani. A voi. Sì, che sta parlando con i colleghi, la sentiamo e poi andiamo in domanda. I miei giocatori sono stati bravissimi e non hanno mollato mai fino all'ultimo, non hanno avuto paura di nulla e quindi complimenti a Siena, veramente complimenti a Siena. C'è stato un momento in cui vi siete chiariti, un momento di confronto con i dirigenti dell'Inter, ci sono stati contatti oggi? Ma guardi, di fatto è stata tutta una bolla di sapone, non era successo nulla, ripeto, il mister Mourinho ci ha fatto i complimenti per come abbiamo giocato e di fatto anche settimana aveva detto che il Siena non si meritava di stare dove è adesso, quindi ricominciamo su da capo con la forza, la volontà di far bene e di tornare subito in Serie A. Benissimo. È una giornata comunque spiacevole per il Siena. Piacevole, sì, perché è definitivo, ragazzi, siamo in Serie B e io sicuramente le lacrime un pochino le ho tirate giù a fine partita perché ero veramente dispiaciuta perché realizzo oggi che veramente siamo in Serie B, però non ci faremo parlare dietro e torneremo subito in Serie A. Piacere anche perché non ha vinto. Benissimo, grazie a Massimo Solazzini e alla vicepresidente del Siena Valentina Mezzaroma. Naturalmente ho elogiato gli arbitri, subito arrivano Strali dalla Sicilia. Chris dice oggi falla da rigore di Thiago Motta, grida vendetta, ditelo, è stato un intervento del giocatore brasiliano in scivolata su un cross di Rosi. Motta è arrivato in scivolata con una coordinazione che è parsa naturale, non mi sembra, come qualcuno ha commentato, che abbia toccato il pallone con un'altra parte del corpo prima che il pallone arrivasse su braccio, ma è stata una situazione assolutamente fortuita con un cross molto debole e il pallone che è passato tra le due gambe di Thiago Motta ed è arrivato su braccio dietro di richiamo. Sarebbe stato un calcio di rigore decisamente fiscale, se ne sono visti altri in questo, di questo genere assegnati, ma quelli erano errori. Quella di oggi sarà stata una valutazione corretta da parte di Morganti. Roby da Trapani invece chiede se ci sono possibilità di vedere Pazzino alla Juventus, non lo possiamo sapere. Certo, Del Neri e Marotta sono due presenze importanti per lui e certo lui ha caratteristiche diverse e migliori da integrare con la Quinta e o Del Piero o altri rispetto a quelle di Cavani, che è un nome che è stato fatto in questi ultimi giorni in attesa della rivoluzione bianconera. Tra poco andremo anche in Piazza Duomo per i festeggiamenti dell'Inter, altri contributi con il presidente Moratti e anche le dichiarazioni di Mario Balotelli. 800 24 00 24 per le vostre telefonate al numero verde, 349 238 6666 per i messaggi SMS. A tra poco, ora il GR. Bentornati da Massimo Callegari, seconda ora di A Tempo di Sport con Roberto Scaltritti in regia, Valeria Bernardi ci ha seguito nel corso della prima ora, Giorgio De Luca costantemente in redazione per aggiornamenti che arrivano anche dalla piazza principale di Milano, Piazza Duomo, dove andremo tra poco e dove la società nerazzurra ha annunciato transiterà la squadra, dunque non ci sarà transito dell'Inter né festa a San Siro. I tifosi nerazzurri però stanno popolando Piazza Duomo già da un'ora abbondante, poco dopo il fischio finale di Morganti a Siena. È stata però anche la domenica della Sampdoria, che torna nella competizione continentale più importante, non accadeva dai tempi di Bosco, Vialli e Mancini, grazie alla vittoria sul Napoli firmata da Pazzini inizio secondo tempo, inutile il 2-1 del Palermo a Bergamo, gli altri verdetti erano già stati determinati nelle giornate precedenti, retrocedono Atalanta, Siena e Livorno. La Fiorentina chiude addirittura l'11° posto, ha perso oggi anche a Bari 2-0, una delle grandissime delusioni di questa stagione, assieme alla Lazio che chiude alle sue spalle di un punto. Il Catania invece a 45-13, ma fa il record della sua storia in Serie A, Udinese, Cagliari e Chievo a 44, Bologna ancora una volta salvo, quart'ultimo a 42 punti. In Europa League vanno Palermo e Napoli, mentre la Juventus giocherà il turno preliminare di Europa League e inizierà la stagione ufficiale alla fine di luglio, e questo significa in pratica la preparazione all'inizio del mese di luglio, probabilmente con Del Neri che è un po' elusivo ed evasivo nelle domande nel post partita. Dice: devo pensare innanzitutto a godermi questa festa, abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, abbiamo ricompattato il rapporto con Cassano che poi lo ha gelato con una secchiata d'acqua per festeggiare prima di ballare, Cassano naturalmente, con il presidente Garrone al centro del cerchio che era stato formato dai compagni nello spogliatoio a festeggiare. Comunque celebriamo una grande Samp che torna nel calcio europeo più importante, anche se dovrà giocare il preliminare. sognare. Tra poco telefonate con tifosi milanisti che devono osservare ancora una festa nerazzurra e sono molto timorosi per il loro presente e per il loro futuro, però andiamo in Piazza Duomo da Irene Privitera per percepire l'atmosfera e la temperatura della festa nerazzurra. Irene, buonasera. Buonasera, buonasera Massimo. Guarda, mi trovo in Piazza Duomo, anzi, per essere sincera, in una via laterale. Sentite il rumore di sottofondo, ma vi assicuro che parlare al telefono dal centro di Piazza Duomo era impossibile. Clacson e trombe che sentite di sottofondo continuano da circa un'ora. In piazza l'emozione è grandissima per questo quinto scudetto consecutivo dei nerazzurri. La folla è festante ed è una folla che cresce di minuto in minuto. Io mi trovo qui da circa un'ora, ti assicuro che di momento in momento continuano ad arrivare gruppi di tifosi festanti. Ovviamente ci sono tantissimi stand per la vendita di bandiere, di magliette. Su queste, come potete intuire, i nomi più presenti sono quelli del capitano Zanetti e di Milito, l'uomo della giornata che col suo 22esimo gol di campionato ha messo la firma su questo scudetto interista. È una piazza che ha cambiato volto. Adesso ci sono i tifosi, ci sono anche tantissimi curiosi turisti, ma dalle 3 alle 5 il silenzio è stato interrotto soltanto dalle reazioni alla partita di tutti questi tifosi. Un attimo Irene, perché a Siena abbiamo in diretta Milito con Massimo Sollazzini. Massimo. Sì, ve lo passo in audio. Principe, buonasera, complimenti. Gran goleador, a ganador de título, dos goles en dos finales prácticamente. ¿Qué te sientes? Sí, contento, la verdad es una alegría enorme, una alegría muy grande. Un año muy duro, muy largo. Creo que estamos justo merecedores de esta victoria final y estamos muy contentos. Sta parlando in argentino naturalmente Milito, domande di un collega suo connazionale, hai segnato due gol in due finali in pratica a Roma in Coppa Italia che oggi, e Milito ha detto sì, grande sensazione, ma credo che ce lo meritiamo ancora Milito. Importante, che ci ha permesso di stare più tranquilli, non riusciamo a slocare la gara, è stato importante perché poi dopo il gol abbiamo gestito bene la partita. Non sei tenuto anche uno per Madrid. Speriamo, adesso cerchiamo di goderci questo momento e poi già da domani penseremo a Madrid. Questo era Diego Alberto, il principe Milito, con Diego Maradona, che lui non è davvero riuscito a lasciare fuori dalle convocazioni, anche se ci ha provato sino all'ultimo ed è tentato dalla follia di Martin Palermo. Un attimo anche Pazzini rapidamente con Sky. Una fiducia incondizionata, però insomma credo che anche, come ho detto, anche merito comunque della crescita, si vede che magari a una certa età non ero ancora il giocatore di adesso. Questo era Pazzini, naturalmente anche lui è maturato in questa stagione e mezza a Genova, la fiducia è stata fondamentale come lo era stata al contrario la sfiducia di Prandelli nel ballottaggio con Gilardino a Firenze, mentre c'è José Mourinho che sta per parlare tra un attimo, sentiremo anche le sue parole, eccolo. Non ho mai vinto nell'ultima partita e non voglio vincere di nuovo nell'ultima, preferisco vincere da piano. Con 4-5 partite da giocare, vincere nella ultima è tanto. Senti, prima ci dicevi, ti aspetto a Madrid, sì, vai a Madrid però dopo torni indietro. Andrea, non abbiamo sentito la domanda. Sì, sicuramente. Perché? Resti all'Inter. Scusa? Resti all'Inter dopo Milano. No, non parliamo di questo. Torno a Milano ovviamente torno a Milano, dopo penso a me un pochino, perché adesso non penso a me, adesso penso ai giocatori, ai tifosi, all'Inter, principalmente all'Inter e al mio lavoro. Dopo la finale vacanze e devo prendere 2-3 giorni per me stesso per pensare un pochino a me stesso. Non ti avevo mai visto con le lacrime, comunque avevi gli occhi lucidi a fine partita. Uno scudetto davvero speciale questo anche per te a livello personale. È il più difficile, come ti ho detto, i due a Porto a 5 partite della fine, a 6 non mi ricordo, i due a Chelsea uno a 4, un altro a 3, l'altro con Inter è stato da pieno quando il Milan ha perso con la Udine. Non sono mai arrivato a un scudetto così fino alla fine, è che non è solo l'ultima partita, è l'ultimo minuto, perché l'ultimo minuto se loro segnano è finito, no? Fino alla fine è duro, non è facile. Non ti voglio far polemica, però in questo periodo in campionato, non in Europa, non hai parlato. Perché questa decisione, se hai voglia di spiegarla oggi, che è arrivato il successo finale? Che decisione? Quello di non parlare durante questi ultimi mesi. Cioè c'era qualcosa che ti sei tenuto dentro, che non volevi dire, che vuoi dire oggi magari? No, è finito, preferisco non dire niente. Però l'Inter aveva il campionato in tasca, l'Inter aveva un grandissimo vantaggio e per differenti ragioni tutto è cambiato. E in questo cambio noi, io allenatore e i giocatori abbiamo un po' di responsabilità in quello vantaggio che abbiamo perso, però non solo noi. E veramente è stato meglio non parlare, perché ogni volta che parlava finiva sempre o con la procuratoria o con la Lega Calcio, con il comitè di disciplina, finiva sempre dello stesso modo. È stato meglio non parlare, e anche questa partita ho rischiato di non stare in panchina, no? Tutti hanno parlato del soldo al Siena, di questa storia, e ho fatto una battuta. Per questa battuta sono quasi stato a rischio di stare fuori di questa partita. Per questa ragione è stato meglio stare zitto e fare il mio lavoro tranquillo con i giocatori. Fabio Mourinho non ha l'auricolare, se fate una domanda. Forse le ultime parole di José Mourinho in Italia da allenatore dell'Inter nell'ambito del campionato italiano. Tra poco torniamo con diversi ascoltatori che sono in fermento anche dall'altra sponda di Milano, quella rossonera. Ora il traffico. Strade in diretta. Traffico molto intenso sulle autostrade Liguri, lungo la 10 dei Fiori, code a tratti verso Genova, tra Pietra Ligure e Savona e tra Celle Ligure e Varazze. Sulla 12 Genova-Livorno, code a tratti verso il capoluogo Ligure, a partire dal Rapallo. In direzione Bologna, code a tratti lungo la 14, tra Imola e Bologna-San Lazzaro. Verso la Francia è di 2 ore l'attesa al traforo del Monte Bianco, di conseguenza è stata chiusa la 5 tra Courmayeur e la Statale 26, code anche in direzione del traforo del Fréjus, lungo la 32, a partire da Bardonecchia. Molti veicoli in circolazione anche sulla carreggiata nord dell'Autosole, code a tratti tra Incisa e Ninesto per la 11 Firenze Mare. Traffico rallentato lungo la 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano e code verso la Svizzera sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. È tutto, noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Mourinho ha completato le sue dichiarazioni, le sta ancora completando. Tra le altre cose ha detto: certo, quando siamo andati a Firenze abbiamo pareggiato e la Roma poi è passata in testa battendo l'Atalanta la domenica pomeriggio successiva. A quel punto il destino non era più solo nelle nostre mani e non eravamo più totalmente certi di poter vincere come lo siamo stati. Per il resto della stagione, per lui è il 6° campionato vinto in carriera dopo i 2 con il Porto e 2 con il Chelsea e il primo con l'Inter l'anno scorso, il più sofferto sicuramente della sua carriera, ma con alcune caratteristiche molto chiare della sua metodologia di lavoro, delle qualità di tecnico e di motivatore che ha inserito e ha mostrato attraverso le prestazioni della sua squadra, che sono state ribadite. E il Mourinho che abbiamo visto qui, basterebbe seguire, leggere un po' anche le biografie che sono state prodotte su di lui, compresa e soprattutto quella ufficiale. Il Mourinho che abbiamo visto qui è quello che è nato, si è formato non solo a Oporto ma ancora prima, agli inizi della sua carriera, per tutte le sue esperienze, e qui ha proposto solo alcune delle sfaccettature che però facevano già parte e faranno sempre parte del suo carattere e della sua mentalità di incredibile vincente. Però come diceva Julio Velasco, che è stato con uno stile diverso, ancora più filosofeggiante, il Mourinho della pallavolo, con una cultura ancora più raffinata e sottile in tante sue declinazioni ed espressioni: chi vince festeggia, chi perde parla. In questo caso chi perde contesta, e sono i tifosi del Milan che, nonostante il 3° posto di ieri, hanno mostrato una contestazione senza precedenti nei confronti del presidente Berlusconi in questi 5 lustri della sua gestione rossonera. Alcuni di loro sono in attesa da un po', li ringrazio per la pazienza, a partire da Marco da Campobasso. Buonasera. Buonasera. Prego. E niente, praticamente volevo parlare appunto della contestazione di ieri, che mi sembra abbastanza giusta e azzeccata. Cioè, praticamente questa società a questo punto è indifendibile. Galliani parla e dice che per lui è strano che i tifosi contestino un presidente che li ha fatto vincere tanto. Il problema non è quello che ci ha fatto vincere. Noi ringraziamo Berlusconi in ginocchio, naturalmente, per quello che ci ha fatto vincere tutti questi anni. però ora, se non c'è più obiettivi, non c'è più un progetto, c'è grande confusione, non capisco perché si ostenta di rimanere su presidente di questa squadra. Per posso chiederle una cosa? Posso chiederle una cosa? Non vende, non capisco per quale motivo non vende o perché non fa una socia con qualcuno che in grado di mettere soldi che lui a questo punto non può più permettersi. Marco, posso chiederle una cosa? Se la società facesse un discorso di progettualità a medio termine, cioè dicesse ci sono 2-3 anni in cui bisognerà ricostruire e potremmo anche non vincere, potremmo faticare parecchio in campionato, ma potremmo poi lavorare per formare un gruppo che tra 2, 3, 4 anni potrà tornare forte con dei giovani. Voi lo accettereste? Allora, in questo caso sì, ma è stato già fatto. Infatti, se lei si ricorda, dopo la vittoria dello scudetto di Zaccheroni, sì, siamo stati alcuni anni senza vincere proprio perché si è creato un progetto di grandi giovani, cioè si presero ragazzi, qualche investimento come Shevchenko, poi Calcuso, sì, un po' di giovani, e vincemmo dopo 3-4 anni. Questo progetto è accettabile, ma questo progetto attualmente non c'è. Cioè non c'è, si vede dagli acquisti che si fanno, dai soldi come si spendono, cioè in maniera sconclusionata, voglio dire. Va bene. È abbastanza chiara la situazione, non c'è progetto e quindi non c'è niente. Praticamente Berlusconi vuole riprendersi di un po' dei soldi che ha speso in questi anni, secondo me. Grazie Marco. Maurizio dalla provincia di Messina, prego. Ciao Massimo. Ciao, buonasera. Sono Maurizio, telefono da Milano, provincia di Messina. Anche se sono un tifoso milanista, stasera volevo vedere i caroselli delle bandiere dell'Inter, ma invece qua a Milazzo, siccome il Milazzo è salito in Lega Pro, ha vinto il suo campionato interregionale, quindi ci sono più bandiere della squadra locale. Comunque volevo dire che per lo squadra non penso che può fare un progetto tipo Sampdoria, Napoli, costruire una squadra, perché mai il tifoso milanista è un tifoso esigente, quindi non vuole più aspettare 2-3 anni per creare un progetto, hai capito? Leonardo vi ha soddisfatto per il lavoro che ha fatto? Sì, fino a un certo punto, poi magari a gennaio doveva pretendere di giocatori validi, non Mancini, magari per esempio un Pando sarebbe stato più comodo al Milan che per Mancini, ma un giocatore ormai quasi finito. E poi invece di Adigia comprano qualche centrocampista valido di piedi buoni. Penso che il Milan poteva anche tentare di arrivare anche in seconda posizione e lottare con la Roma, credo. Va bene, grazie Maurizio, si gode i caroselli del Milazzo. Buonasera. Sì, effettivamente c'è un po' di confusione e Leonardo ha capito questo e la separazione consensuale parte dalle critiche che lui ha ricevuto da presidente Berlusconi in varie fasi e per interposte persone o per interposti senatori, e parte dalla consapevolezza che gli investimenti saranno anche per la prossima stagione limitati. Certo, ci sono alcuni giovani sui quali il Milan può lavorare, quelli della primavera, ma senza caricarli di eccessive responsabilità e pressioni, perché abbiamo visto quanto sia difficile per giocatori come Poli, Balotelli, Santon, che un paio d'anni fa hanno giocato finali di Coppa Italia Primavera, di Campionato Primavera, a Viareggio, quanto sia difficile per il passaggio ad altissimo livello e quanto ci si debba e ci si possa aspettare un rendimento alterno anche da giocatori che hanno delle qualità riconosciute ed eccezionali, perché Balotelli e Santon erano, come Poli della Sampdoria, al loro livello dei fuoriclasse assoluti. Il Milan ha alcuni giocatori molto bravi, Verdi, Zigoni, Albertazzi, del quale si parla già da tempo e che sarà in prima squadra, Strasser un po' meno, lo stesso Gagliani ha ammesso che ha 20 anni e si fino ad oggi non ha giocato in Serie A nel Milan, con le possibilità che c'erano di inserire giocatori in un organico ridotto come quello del Milan o non particolarmente ampio come quello di altre squadre. Se non ha giocato, evidentemente ci saranno delle motivazioni precise, perché le scelte sono arrivate anche da allenatori diversi, prima Ancelotti e poi Leonardo. Matteo da Milano, buonasera. Sì, buonasera a voi. Niente, io faccio complimenti all'Inter, do l'onore delle armi, grande squadra, grande stagione. Quello che è giusto dire è giusto dire. Io, niente, chi mi ha preceduto ha detto parzialmente le cose che volevo anticiparvi io. Comunque, molto brevemente, io le chiedo e le domando se un grande progetto, prima di tutto, non parte dalla scelta di un grande allenatore. Il Milan, dopo Ancelotti, grandi allenatori non ne ha avuti, e la scelta che sta tecnica che sta per essere effettuata di Galli Tassotti, io sinceramente non la reputo all'altezza del Milan. Partendo da questo, poi il discorso rinforzi, quindi campagna acquisti. Un grande club come la storia del Milan deve fare una campagna acquisti all'altezza del proprio nome, della propria gloria e della sua storia. Se questa società non ha più questi presupposti, non vuole più investire economicamente, allora che accettassero il fatto di comunque di dare il Milan a chi ha possibilità per investire in questo senso. Insomma, bisogna vedere se c'è però qualcuno che ha possibilità. Io sono convinto che qualcuno magari interessato, se la società viene messa in vendita, magari ci possa anche essere, però prima bisogna partire dal presupposto che dalla vendita, altrimenti insomma si fa poco, perché vedo che insomma la gestione Berlusconi adesso è arrivata, insomma, non dico il capolinea, ma quasi. Si vede non si ha un programma per la prossima stagione, non si sa cosa si vuole impostare, che obiettivi dare alla squadra. È un grande club, queste cose non se le può permettere, insomma. Va bene. Il Milan degli anni d'oro non è, di certo non veniva gestito in questo modo qua, ecco, tutto qui. Molto chiaro, grazie Matteo, buonasera. Grazie a voi, buonasera. A questo proposito, è vero che un grande progetto parte da un grande allenatore, ma non necessariamente, nel senso che se deve essere un grande progetto di vittorie e successi immediati, è necessario che ci sia un tecnico di altissimo profilo. Se non ci sono le condizioni economiche però per investire su un grande allenatore e su grandi giocatori, queste due cose sono legate fra loro, e quindi anche i grandi allenatori vogliono garanzie, ed è difficile trovare un punto di incontro. A questo punto è preferibile che ci sia un allenatore motivato e di prospettiva, che abbia voglia, capacità e qualità di imporsi, e che sia naturalmente messo nelle condizioni di farlo e che abbia tempo e modo di sbagliare, cosa che non è stata concessa in toto a Leonardo, che i suoi errori li ha commessi, ma aveva sicuramente e ha dei margini di miglioramento ulteriori nella sua carriera, se vorrà proseguire quella di allenatore. Tra poco torniamo ancora con altri ascoltatori all'800 24 00 24, sms anche da parte dei tifosi della Juventus, ancora più delusi di quelli del Milan chiaramente, al 349 238 6666. Ora c'è una breve pausa. Business e sostenibilità. Quali sono le sfide ambientali e sociali? E quali sono le opportunità per le aziende? Lunedì 17 e martedì 18 maggio, in occasione del Global Business Summit 2010, gli esperti migliori di Harvard Business School e Il Sole 24 Ore incontrano l'eccellenza del management internazionale per rispondere alle domande che l'economia si pone. Anche alle tue. Anche alle tue. Invia la tua domanda per il futuro all'indirizzo gbs@radio24.it e potrai avere la possibilità di porla personalmente durante il summit. Per informazioni e iscrizioni visita ilsole24ore.com/gbs2010 o chiama il servizio clienti all'199 43 00 43. Uno dei grandi misteri dell'antichità è legato al culto di Icaro. I suoi seguaci, detti Icarini, lo veneravano come un dio e nei loro riti ne rievocavano il famoso volo. In queste cerimonie si lanciavano da una rupe con grandi ali di terracotta, di cui purtroppo non ci è arrivato integro neanche un esemplare. Morale? Meglio stare coi piedi per terra. Trazione integrale motore boxer, tecnologia esclusiva Subaru. Nuova Subaru Legacy, un'autentica calamita da 26.400 euro. Oggi anche in versione berlina, negli showroom Subaru anche sabato. Usciamo tutti in strada e andiamoci a prendere Sky Gold Box. Sky Gold Box a 49 euro. Puoi vedere tutto Sky fino a fine agosto, mondiali FIFA in HD inclusi. Chiama 02 70 70. Info su sky.it/goldbox. Salve, ha detto allo scaffale. Vorrei un po' di frutti naturali della terra per i miei fratelli della comune. Cioè, tipo fagioli di soia, due ribes e poi un chilo di piselli. Cioè, per riconciliarci con la madre terra. Con Direct Line dilagano gli anni 70. Se sei nato negli anni 70, hai 70 giorni di polizza auto gratis. Cosa aspetti? Scopri tutti i dettagli e fai subito il tuo preventivo. Chiama l'848 80 11 80 o vai su directline.it. Direct Line, consigliata da chi ce l'ha. Un attimo, per favore. Allora, sentiamo solo i rossi, i verdi e i blu. Rosso, verde. Adesso proviamo a unire anche i gialli. Rosso, verde, blu, giallo. Sharp presenta Quattron, l'innovativa tecnologia che rivoluziona il mondo dei televisori. Ai tradizionali colori RGB rosso, verde e blu si aggiunge il giallo per vedere una vastissima gamma di colori mai vista prima. Quattron di Sharp. Se non lo vedi, non ci credi. 45 anni di missioni speciali, 6.000 diverse identità. Ora è pronto per un nuovo incarico. Transit, socio inseparabile. For Transit Van TDCI a 13.000 euro, solo a maggio. Prendi 5 cose: la solidarietà, l'amore, l'impegno, la cura, l'eubiosia. Ora moltiplicale per 1.000. Avrai ottenuto 20 ospedali a domicilio che ogni giorno assistono gratuitamente in tutta Italia 3.000 sofferenti di tumore in fase avanzata. Dona il tuo 5 per 1.000 alla Fondazione Antitalia Onlus. Nella dichiarazione dei redditi scrivi 0122 96 50 377. Grazie. www.ant.it 051 71 90 101. Da Expert trovi qualità e non scommesse. Acquista un TV Full HD ed Expert ti dà in abbinamento 6 mesi di Sky con tutti i mondiali in alta definizione. Il TV LED 40 pollici Samsung che videoregistra e si collega a internet, abbinato al pacchetto Sky, a soli 1.399 euro. E paghi fino a 24 mesi a tasso zero. Dan zero, tag zero. Expert. Gli esperti siamo noi. Promozione valida dal 14 al 29 maggio. Informazioni, regolamento, avvisi e fogli informativi nei punti vendita aderenti, salvo approvazione della finanziaria. Scommettiamo che vieni da noi! E questo è l'ufficio export. Però quanto personale, che investimento! Eh no, ai nostri due interni ho aggiunto un export specialist in outsourcing. Ah, servirebbe anche la mia azienda, ma è venduto all'estero. Incarica un export specialist Comark. Nuovi mercati e incremento di fatturato a costi contenuti. Vedrai che metodi e strumenti di vendita innovativi. Oggi per vendere servono nuove soluzioni. Vendere all'estero? Chiama Comark. Comark ha un export specialist anche per la tua azienda. Chiama 800 123 640 o vai su www.aziendedisuccesso.it. E ora la linea a Franco Bobbiese dal circuito di Le Mans. Cari ascoltatori, è appena terminata una gara straordinaria. Che sorpassi, che duelli, quante occasioni. Occasioni? La vera occasione è la festa dell'usato e chilometri zero del gruppo Fassina. Davvero? Quando? Dove? Sabato 22 e domenica 23. Il gruppo Fassina vi aspetta nei suoi showroom di Milano. Informarsi conviene www.gruppofassina.it. Festa dell'usato di Fassina, un sorpasso straordinario. Tempo di sport. Continua, è appena iniziata e durerà sino alla notte, quando arriverà la squadra da Siena via Pisa e poi Malpensa, la festa dei tifosi dell'Inter in Piazza Duomo. Tra poco altri messaggi al 349-238-6666 e vostre telefonate al numero verde 800-2400-24. Ma questa sera ci sarà un'altra festa a Barcellona o nella Plaza de Cibeles a Madrid. Al Camp Nou c'è Filippo Maria Ricci per la Gazzetta dello Sport per vivere gli ultimi 90 minuti della Liga. Filippo, cosa dobbiamo aspettarci? Buonasera. Buon pomeriggio, io direi che ci aspettiamo una vittoria del Barça, poi dopo, come si dice nel calcio, tutto può succedere, però il Barcellona è in vantaggio di un punto e ovviamente se vince è campione. Gioca, è interessante il fatto che le due squadre, Real e Barça, giocano contro due squadre che se perdono rischiano seriamente di andare giù, sono appaiate a questa quota 36, ci sono 5 squadre coinvolte nella lotta di retrocessione, 3 scenderanno giù e quindi sono due squadre identiche che hanno pareggiato 15 partite, sia il Malaga che il Valladolid insomma bisogna vedere, mi sembra che il Valladolid abbia schierato una squadra molto difensiva, quindi si parla di autobus parcheggiato davanti alla porta e vediamo se basterà, insomma, ecco. Vediamo se basterà il Valladolid sdraiato davanti alla porta. Non basterà in ogni caso, mi sembra di averlo capito dal tuo racconto di oggi sulla Gazzetta e anche dalle sue parole, dici ha smesso l'atteggiamento zen Pellegrini, non basterà in ogni caso un'eventuale clamorosa vittoria del Real per trattenerlo sulla panchina dei Blancos? No, questo sarebbe è uno scenario surreale, poco realistico, ma anche sarebbe molto divertente per noi spettatori neutrali vedere se per caso Pellegrini vince la Liga e poi lo cacciano via. Sarebbe per Florentino Perez ripetere, diciamo, un déjà vu. Ha già mandato via Del Bosque smantellando quella che era una squadra vincente, no? E non vincendo mai più nulla, dovrebbe rifarlo, però probabilmente, diciamo, Pellegrini andrà via da perdente, un perdente che però ha fatto farà molto ovviamente 98 punti in Liga. Diciamo, è stato in silenzio tutto l'anno, questa settimana tremenda praticamente, bisogna considerare che come sempre, con scarso rispetto poi anche per le squadre di provenienza, come era l'anno scorso per Cristiano Ronaldo, quest'anno Mourinho viene già dato all'Inter, sì. E Pellegrini niente, ha sopportato, e ieri nella penultima conferenza stampa ha detto quello che doveva dire. Non mi sembra, insomma, dice, ci sono, se ne parla tanto qualcosa di vero ci dovrà pure essere, insomma, più o meno il tono era questo. Per chiudere, se Guardiola dovesse, come sembra e come ci prospetti, vincere questa Liga, come sarà ricordata questa sua seconda stagione da allenatore? Alla fine bene, considerando che Guardiola per ora ha partecipato a 3 campionati e se vince questo li vince tutti e 3, compreso quello in quarta divisione, non si può voler male a Pep. È chiaro che la storia era abituata a, diciamo, ad andare in finale di Champions, quest'anno si è fermata solo alle semifinali, però insomma comunque hanno vinto anche, diciamo, quelle tre varie coppette, tra Supercoppa Europea, Supercoppa di Spagna e Mundialito, diciamo, la stagione è positiva. Se perdono la Liga si trasforma in un disastro, però insomma, ecco, sarebbe una sconfitta storica, difficilmente che c'è, quindi comunque passerebbe alla storia anche come sconfitta, via, mettiamola così. Grazie Filippo e buon Barça Valladolid. Un abbraccio a voi. Un abbraccio a Filippo Maria Ricci, che seguirà per la Gazzetta dello Sport Barcellona Valladolid in contemporanea Malaga Real Madrid. Le due squadre avversarie delle due contendenti per la Liga sono in lotta appunto per non retrocedere, assieme a Tenerife, Racing e Santander, tutte a quota 36, mentre il Barça è in vantaggio di un punto sul Real Madrid, che ha battuto sia all'andata che al ritorno, quindi è una situazione che ricorda un po' quella che per buona parte del torneo abbiamo vissuto in Italia tra Inter e Milan, ovvero con gli sconti diretti nettamente a favore di una delle due squadre, ma il restante campionato con un rendimento migliore da parte della squadra che insegue, che aveva perso i due sconti diretti, appunto il Real Madrid. Ancora vostre telefonate, mentre vi preannuncio anche un contributo esclusivo realizzato da Dario Ricci tra poco con Turbo Mario Balotelli. Però c'è in attesa da parecchi minuti Alessandro da Pescara. Buonasera. Senta, io volevo dire questo: lo scudetto dell'Inter è stato meritato sostanzialmente per due motivi. Primo, ha avuto tutta la stampa, quasi tutta, e tutte le televisioni pubbliche e private. Complottismo allo stato puro, Alessandro. Diciamo non favorevoli. Complottismo allo stato puro. Ecco, secondo poi il grandissimo merito dell'allenatore di Mourinho, il quale, nonostante ciò che blaterasse sia la stampa che le televisioni, ha avuto la forza di tenere fuori, anche quando poteva essere utilissimo, risanandolo, secondo me, Balotelli. Aveva fatto prima con Santon per i noti motivi che aveva parlato troppo di una partita all'esterno. Un allenatore, lo si vede anche da queste cose, io ho abbastanza anni per aver vissuto l'epopea di Herrera. Guardi, questo ne è la fotocopia, forse in meglio, in quanto è più tecnico. Sì, più modernizzato sicuramente. Più modernizzato, però nessuno, direi, ha avuto il coraggio, la forza di andare come è andato lui, contro tutti. Io non so, ve lo ricordate, voi siete del settore, siete del mestiere, cosa è stato detto e non detto quando teneva fuori Balotelli, il quale Balotelli l'avrebbe perso definitivamente, invece l'ha usato in modo tale che il ragazzo probabilmente ha capito la lezione, e questo secondo me ha scritto come grande merito di un allenatore. Sì, è vero, non so quanti l'avrebbero fatto. Ha ragione Alessandro, grazie. Effettivamente vero quello che lei dice, soprattutto perché non si è mai visto un allenatore, né tantomeno uno vincente come Mourinho, che ha fatto o fa le cose contro il suo interesse e quello della squadra. E tutta la gestione di Balotelli e di altri casi individuali è stata fatta per il bene collettivo, per garantire e migliorare la credibilità e l'autorevolezza dell'allenatore all'interno del gruppo, per rafforzare il gruppo che è stato sempre molto compatto. C'è un altro particolare che riprendo, ricordando la sua affermazione su Santon, che aveva detto qualcosa di troppo in merito a una partita in particolare, qualcosa che sarebbe dovuto rimanere all'interno dello spogliatoio. Seguendo le partite dell'Inter spesso su Premium Calcio, gli anticipi e i posticipi, ho verificato personalmente una situazione che ha pochi riscontri in questi anni, che riguarda chiaramente tutti noi dell'ambiente. C'è una capacità di mantenere anche le informazioni più importanti, più riservate, come quella della formazione all'interno, che è stata costante. Quante volte sono state previste formazioni sulla base di minime sensazioni da parte di tanti giornalisti detti ai lavori, che poi sono stati smentiti clamorosamente dalle scelte di Mourinho sin dal primo derby vinto con Snyder in campo dopo 24 ore appena dal suo arrivo a Milano. Questo significa che all'interno tutti i giocatori non fanno filtrare nessun tipo di informazione che viene provata nel corso della settimana sulle scelte dell'allenatore, e questo significa che tutti rispettano con grandissima stima e forse anche con un po' di timore il loro allenatore, ma del resto è una caratteristica, una delle tante dal mio punto di vista, che lo assimila a Fabio Capello. Non a caso tanti colleghi inglesi incontrati sui campi d'Europa mi hanno riferito di giocatori, in particolare di Wayne Rooney, che fears Capello, che ha paura di Capello, e serve anche un po' questo: meglio essere un po' più temuti che amati quando si gestisce un gruppo di giocatori così importanti. Certo, anche la società ha dato un contributo importante a Mourinho. Sentiamo il contributo invece che ha raccolto Dario Ricci con Mario Balotelli in esclusiva poco fa per noi, e poi parliamo anche di Juve, perché c'è qualcuno di voi in attesa su questo tema. Mario Balotelli. Sono contento perché è il terzo, però questo penso sia uno dei più penso sia uno dei più sofferti, però è stato molto bello, appunto perché è stato sofferto, è stato bello fino in fondo. Ti abbiamo visto anche felice insieme al presidente Moratti, no? Direi un abbraccio importante dopo una stagione tribolata. Ma io ti dico, guarda, è bello che abbiamo vinto lo scudetto, è bella questa festa, anche perché è stata, soprattutto perché è stata una stagione tribolata, proprio per questo, perché se fosse andato tutto liscio e avessimo sempre vinto, e questo non sarebbe stato così bello vincere, secondo me. Adesso si va a Madrid, che Balotelli ci dobbiamo aspettare e che Inter ci dobbiamo aspettare? Io sarò disponibile come sempre e darò il massimo, e anche la squadra farà lo stesso. Cosa vi preoccupa di questo Bayern Monaco, che tra l'altro è in formissima, anche loro reduci dalla doppietta Coppa di Germania campionato? Io penso che abbiamo visto quanto siamo forti noi, ho sempre detto non bisogna guardare gli altri, noi dobbiamo pensare che noi siamo i più forti perché siamo i più forti e giocare come siamo capaci, non guardare gli altri. Se stiamo lì a guardare gli altri non giochiamo come sappiamo noi. Questo era Mario Balotelli, contributo raccolto in esclusiva da Dario Ricci. È stato molto piacevole, molto bello sentirlo non sorridere ma ridere di gusto e di gioia molto spontanea. Ricordo un articolo sulla Gazzetta dello Sport di Stefano Borgonovo che diceva: Mario, ma io rido e tu non ridi, per quale motivo? Insomma, era un momento tra i più difficili della stagione del ragazzo nerazzurro, che però poi si è rilanciato anche grazie al modo in cui lo ha gestito Mourinho, al modo in cui si sono chiariti poi i rapporti tra loro, nonostante gli interventi incendiari di Mino Raiola, e le prestazioni di Balotelli nella finale di Coppa Italia con la Roma e anche in questa partita sono state esemplari e anche molto positive sul piano della qualità. Una notizia di Formula 1 prima dell'ultima pausa, perché Michael Schumacher è stato retrocesso e penalizzato di 20 secondi, dunque è tredicesimo nel Gran Premio di Monaco, per la decisione di sorpassare Alonso in regime di safety car al termine della gara. Per questo penalizzato Schumacher, e per questo Fernando Alonso sesto era partito dalla pit lane, e comunque risultato di grande prestigio. Tra poco l'ultima parte, ancora molti ascoltatori in linea, tra poco Strade in diretta. Tra traffico molto intenso sulle autostrade Liguri, sulla 10 dei Fiori, code verso Genova tra Borghetto Santo Spirito e Savona e tra Celle Ligure e Varazze. Sulla 12 Genova-Livorno code a tratti verso il capoluogo Ligure a partire da Chiavari. Verso la Francia è di 3 ore l'attesa al traforo del Monte Bianco, di conseguenza è stata chiusa la 5 tra Courmayeur Sud e la Statale 26, code anche in direzione del traforo del Fréjus sulla 32 a partire da Savulx. Molti veicoli in circolazione anche sulla carreggiata nord dell'Autosole, code a tratti tra Incise e l'innesto per la 11 Firenze Mare. E ci sono code di 2 km anche verso la Svizzera, lungo la 9 Lainate Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. È tutto, strada in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Ancora ascoltatori in linea, anche una parentesi finale naturalmente dedicata al Giro d'Italia. Gian Nicola da Milano, buonasera. Sì, buonasera a lei, saluto lei e i suoi ascoltatori. Senta, io volevo fare, io sono tifoso della Juve, chiaramente tifoso non deluso ma dispiaciuto. Io faccio questa considerazione: nel girone di andata la Juve, ed era la Juve di Ferrara, ha battuto sia i campioni d'Italia che i vicecampioni d'Italia, questo è un dato oggettivo. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa dei Campioni si potrebbe dire che abbiamo battuto anche i campioni d'Europa, ma certamente abbiamo anche pareggiato sul campo di Monaco di Baviera, una partita che probabilmente il Bayern avrebbe meritato di vincere, sì, ma che comunque abbiamo pareggiato. E allora mi ricollego a quello che diceva lei a proposito delle similitudini caratteriali capello Mourinho. Sì. Io credo che il problema della Juve quest'anno, perché non possiamo pensare che siano così scarsi da meritare 30 punti di distacco dai primi in classifica, il problema della Juve sia un problema di cattiva gestione, perché probabilmente sia Ferrara che Zaccheroni sono stati due allenatori non all'altezza della situazione. Neanche supportati dalla società, che... però mi permetta. Neanche minimamente supportati. Inesistente, certo, certo, perché penso che i valori tecnici della Juve, cioè, non si possono discutere. È chiaro che se noi oggi guardiamo il rendimento di giocatori come Amauri, come Filippo Melo, come Diego, su cui è stata impostata la campagna acquisti, ma anche gli stessi Cannavaro e Grosso, sembra che abbiano mandato in campo i loro fratelli piuttosto che loro stessi. Certo. Io credo che il problema sia un problema di motivazione, perché al di là di quello che può essere importante per una società, cioè la conquista del quarto posto sarebbe stato fondamentale, però chiedere a dei giocatori che sono abituati a campioni del mondo, che sono abituati a giocare per grandi livelli, chiedere loro di giocare per il quarto posto. No, vabbè, questo no, però, perché sono professionisti e quindi devono essere in grado di lottare, di adeguare le loro ambizioni a quello che succede nel corso della stagione. Vero, anche perché quello che succede, anche perché quello che succede, poi devo lasciare spazio anche ad altri ascoltatori, è responsabilità primariamente loro, nel senso, se la Juventus è arrivata a lottare per il quarto posto e non per il secondo o per il primo come ambiva all'inizio della stagione, è anche e soprattutto per responsabilità di chi va in campo, poi non adeguatamente motivato, non adeguatamente allenato, perché dal punto di vista fisico-atletico la Juventus è stata sempre in ritardo rispetto a tutte le avversarie ed era una formazione che doveva essere al top in questo aspetto. Io vidi dal vivo la partita con la Sampdoria e lì mi feci questa idea molto chiara. Lì la Juventus giocò molto bene, vinse 5-1. Fu una grande dimostrazione di forza anche fisico-atletica. La Juve lì era in buona condizione fisica, poi non lo è quasi mai più stata. È vero quello che lei ha detto, la Juve ha vinto contro l'Inter e contro la Roma, ha pareggiato a Monaco nella prima fase della stagione, però quei risultati, soprattutto quello con l'Inter, arrivarono non per una qualità di gioco, un'organizzazione collettiva di alto livello, ma per una prova di grande determinazione, di grinta, di nervi, e con queste caratteristiche si possono vincere alcune partite, ma non si può arrivare in fondo a una stagione, non si può competere ad altissimi livelli per tutta l'annata. Andrea da Roma, buonasera. Buonasera, senti, io volevo fare, logicamente sono romanista un po' dispiaciuto oggi, però volevo fare i complimenti all'Inter perché è stato più forte. Io volevo parlare delle dichiarazioni che ha reso il ministro la russa, sempre puntuale, diciamo, cioè lui ha cercato sempre di separare gli animi, gli ha detto praticamente il Siena si deve vergognare. Io, cioè, all'ultima giornata, quando è finito tutto quanto, uno deve cercare di fare un po' di dichiarazioni un po' distensive. Quando l'ha detto, scusi, oggi? L'ha detto oggi. Cioè io lui è sempre puntato, secondo abbassiamo me, i toni, come disse Mourinho, no? Abbassiamo i toni. Ormai è finita, festeggiamo, chi ha vinto e chi se no ci vediamo l'anno prossimo. Mi è dispiaciuto moltissimo per questa cosa, grazie. Grazie a lei, io adesso non ho visto queste dichiarazioni, quindi naturalmente non posso commentarle, essendo anche dichiarazioni di una persona che ha un ruolo istituzionale importantissimo, senza averle lette di persona, però se lei me le ha riferite sicuramente non hanno aiutato a stemperare la situazione. Però devo riferirvi altre dichiarazioni che ci riportano sul piano tecnico e sono importanti, che interesseranno sicuramente anche i tifosi dell'Inter, non solo quelli che stanno festeggiando in Piazza Duomo. José Mourinho, tra le tante cose che ha detto tornando a parlare in Italia alla fine di questo campionato, ha anche affermato questo: dopo Madrid ci sarà il tempo di essere egoista per 1, 2, 3 giorni, penserò a quello che mi farà più felice dal punto di vista professionale. Devo pensare, ma adesso al 100% posso dire che non è vero che sto con un piede e mezzo al Real Madrid, anzi sono lontanissimo dall'essere l'allenatore del Real. Non sappiamo naturalmente se è un messaggio cifrato ai dirigenti del Real Madrid per alcune condizioni che Mourinho vorrebbe soddisfatte e che ancora non vede all'orizzonte per diventare tecnico dei Blancos, o se è invece un messaggio sincero e veritiero ai tifosi dell'Inter. Certo, in ogni caso Mourinho dice: non sono l'allenatore del Real Madrid, sono lontanissimo, ma non dice e non l'ha mai detto: rimango al 100%, neanche al 99,99%, come disse l'estate scorsa. Italo da Como, buonasera. Buonasera. Prego. Italo da Como, perché da vecchio interista sto andando qui in Piazza Duomo. Ah. C'è traffico? C'è traffico? No, adesso no. Volevo solo una cosa molto ovvia, ma ringraziare la famiglia Moratti per tutto quello che in tutti questi anni, a partire dal signor Angelo, al signor Presidente adesso, per quello che ha fatto, che sta facendo e che presumibilmente farà per la grandissima Inter. Era solo per questo. Va bene, raccogliamo e giriamo, per quanto credo adesso il Presidente e la sua famiglia siano impegnati in altre faccende, però insomma è una testimonianza positiva e di ringraziamenti per un Presidente che ora viene celebrato, omaggiato e festeggiato, e che però è stato in altri momenti e in altri periodi anche aspramente criticato dai suoi stessi tifosi, che ha trovato grazie alle recenti vittorie sicuramente anche un equilibrio sia nei successi che nelle sconfitte, ed era ciò che mancava in precedenza nelle altre gestioni di allenatori e dei giocatori dell'Inter nel lungo ciclo di presidenza di Massimo Moratti. Un minuto per chiudere parlando di Giro d'Italia con Piero Augusto Stagi. Anche oggi una tappa epica come quella di ieri, Piero Augusto, o con sfumature un po' meno eroiche, quella che è arrivata al Terminillo. Buonasera. Buonasera a te, ciao. Sì, oggi forse ci si aspettava qualcosa di più, ma credo che sulle gambe dei corridori siano rimaste le scorie di una faticaccia della tappa delle strade bianche di Siena di ieri. È stata una tappa, veramente una frazione molto molto selettiva, spettacolare per chi l'ha guardata, meno spettacolare per chi l'ha corsa, tant'è vero che questa mattina qualche malumore c'era, soprattutto Vincenzo Nibali, l'ex Maglia Rosa, era molto molto arrabbiato con un compagno, un collega, Stefano Garzelli, che ha praticamente attaccato quando lui è caduto, e la cosa non ha gradita neanche un po' e non ha mancato di sottolinearlo. Le cose che capitano logicamente nel mondo dello sport, dove non si guarda tanto al fair play e ahimè si agisce di conseguenza. Com'è finita, Piero Augusto? Oggi è finita che sul Terminillo, in mezzo alla neve, in un clima veramente polare, ha vinto uno che col freddo e il gelo è abituato, il danese Chris Sorensen. Secondo è arrivato un neoprofessionista, Simone Stortono, un ragazzo marchigiano al suo primo Giro d'Italia, e terzo uno spagnolo che si chiama Toldo Volpini, quindi un cognome che richiama un po' le origini italiane. Poi i più forti, diciamo gli uomini di classifica, Sesto Cunego, poi Garzelli, Vinocuro, diciamo che hanno guadagnato guadagnato qualcosa Nibali e Basso, che nella classifica generale questa sera sono risaliti al terzo posto Nibali, sempre con un distacco di 1:12.33 da Vinokourov, e 1:51 quarto Ivan Basso. Benissimo, benissimo. Si sono rimessi un po' in carreggiata. Grazie Pier Augusto, buon Giro d'Italia, presto. Grazie a voi. Grazie Pier Augusto Stagi. Siamo in chiusura di questa domenica, di cui vi riassumo rapidamente i verdetti. I due più importanti attesi: l'Inter campione d'Italia ha vinto 1-0 a Siena, gol di Milito al 12° del secondo tempo. La Roma vinceva già dalla fine del primo tempo, Vucinic e De Rossi a Verona sul Chievo, ma non è bastato. La Samp ha battuto 1-0 il Napoli con gol di Pazzini al 6° della ripresa, e il Palermo ha vinto 2-1 a Bergamo al 50° del secondo tempo con doppietta di Cavani, ma non è bastato. Samp in Champions League ai preliminari, Palermo e Napoli in Europa League, Juve ai preliminari di Europa League, retrocedono Siena, Atalanta e Livorno. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi, Roberto Scaltritti in regia. Tempo di Sport torna naturalmente domani con l'appuntamento pomeridiano verso la Champions League e la finale di Madrid con Gigi Garanzini. Buona serata da Massimo Callegari.